9 in punto, la versione di Oscar. Oh, cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì 7 maggio, un augurio alle Flavie Domitille, perché questo è il nome in calendario, ed eccoci all'indomani del turno elettorale che dalla Grecia alla Serbia, dallo Schleswig-Holstein in Germania, alla Francia soprattutto, vede un colore prevalente. Il colore non è tanto quello politico, ma il segno del manifestazione che potente si alza da parte degli elettorati, ed è un segno di ripulsa, di rigetto verso le politiche che con tanto tramestio, tanto ritardo e tanto aggravio della crisi europea, la politica europea ha tardato 2 anni e mezzo ad assumere di fronte alla crisi greca, e in realtà, sia pure in coerenza a storie politiche diverse paese per paese europeo, il segno che unisce appunto la maggioranza degli elettorati che si sono espressi ai 4 cantoni dell'Europa è quello di rifiutare una europolitica di cui si vede, sì certo, il rigore, ma inteso come conseguenze soprattutto recessive, ma non si è visto, o almeno ai popoli europei non sembra proprio che ci sia, un meccanismo cooperativo tra paesi euroforti ed eurodeboli. E questo spiega quindi il voto esplosivo in Grecia, e questo spiega il cambio di passo rispetto a Sarko, accusato di avere degradato l'idea dello Stato francese agli occhi dei francesi, ma soprattutto per aver retto l'intesa con la Germania. Intanto in Germania, nello Schleswig-Holstein, la Merkel perde il governo di questo piccolo stato del nord, di piccolo land del nord, anche se i liberali per fortuna entrano in Parlamento con un buon risultato, oltre il 4%, e quindi hanno buone prospettive per il voto di domenica prossima nel Nordrhein-Westfalia, ma insomma la Merkel perde anche a casa sua l'ennesima elezione locale, e da questo punto di vista il segno che viene è un segno che fa... ovviamente pone dei problemi, perché l'instabilità che ai mercati non piace torna molto forte. Bisognerà interrogarsi e capire in ciascuno di questi paesi come si mettono le cose. Ci sarà un governo greco? È in condizione la Grecia di fare un governo? Deve tornare alle elezioni, oppure torniamo al punto in cui la Grecia può uscire dall'euro? Cosa succede con la Francia che ci fa ballare, se davvero Hollande tiene fede agli impegni che ha assunto in campagna elettorale, denuncia il fiscal compact ritratta l'intesa franco-tedesca? C'è da guadagnarci, c'è da perderci? Torniamo a quota 500, malgrado il governo italiano avesse detto che avevamo fatto i nostri compiti a casa e che a questo punto il problema era colpa degli altri, colpa degli spagnoli, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un po' il punto di fondo all'indomani di queste elezioni, con un occhio poi attento a vedere se fenomeni analoghi si verificheranno, sia pure nel turno più ridotto amministrativo per il quale si vota oggi fino alle 15, e che domani ci vedrà ovviamente in continuata in speciale riferirvi opinioni e interpretazioni, e infine sempre con un orecchio attento alla nostra campagna di Sperati Mai @radio24.it, che ha visto anche in questi giorni, dopo i nuovi suicidi e tentati suicidi, con Pozzuoli avete visto l'artigiano che si è sparato, e con le lunghe code della vicenda di Romano di Lombardia, col Martinelli che è andato col fucile all'Agenzia delle Entrate, anche in questi giorni ci sono arrivate moltissime altre lettere. Noi continuiamo a leggerne, a darne lettura, e andremo ancora avanti a parlarne. Ci invitano a tutte le trasmissioni televisive per questo. Finalmente abbiamo dato una mano a rompere quel buco di silenzio che ha coperto questa rottura di continuità che c'è nella piccola impresa italiana, per via dell'aumentata pretesa dello Stato, dell'incapacità dello Stato e della mancanza di volontà dello Stato di trovare mezzi per pagare i suoi debiti da 100 miliardi, per compensare i suoi crediti IVA da 30 miliardi, e dietro lo Stato cattivo pagatore tutti sono diventati cattivi pagatori, c'è il problema del credito. Ma in buona sostanza devo dirvi che sono sempre più scandalizzato anche da due fatti. Il silenzio del governo di fronte alla marcia delle vedove di venerdì a Bologna mi è sembrato un'altra cosa inqualificabile. perché che non si avverta la necessità di creare meccanismi di fiducia pubblica, dicendo una parola di sostegno e di solidarietà neanche alle vedove degli imprenditori che si sono suicidati, mi ha veramente colpito, perché evidentemente la linea intrapresa quando con scandalo il Presidente del Consiglio ha detto ma che intollerabile pretesa che lo Stato compensi i crediti IVA rispetto al dovuto fiscale, continua sulla totale sordità. E questa cosa dai membri di questo governo non me la sarei mai aspettata, e continuo a non capire se si tratti di un orgoglio mal fondato o veramente della necessità di una visita da Lotorino, perché non capire che occorrono segnali di fiducia e di ricostituzione e un minimo di livello di ascolto di fronte a questi fenomeni ormai quotidiani, beh, è veramente impressionante. Fossi chi vi parla, il Presidente del Consiglio, lancerei l'idea, perché è puramente simbolica, non risolve il problema, ma di qualche gesto simbolico fortemente capace di interpretare la vicinanza delle istituzioni con quello che avviene. Non lo so, perché non pensare a un memoriale nazionale in cui mettiamo i nomi di tutte le vittime del lavoro, i lavoratori dipendenti che ancora muoiono sul lavoro, e contemporaneamente i suicidi da dignità, che sono quelli degli imprenditori. È un'idea sbagliata? Sì, può essere, non lo so, vi potrà sembrare troppo simile al muraglione nero a Washington dei morti della guerra delle Vietnam, può essere pure, però di gesti simbolici di questo tipo si dovrebbe nutrire poi la necessità di risposte concrete, come mettere mano alla cassa depositi e prestiti per pagare senza far deficit aggiuntivo i 100 miliardi di euro di debiti commerciali dello Stato, ricorrere allo stesso meccanismo di garanzia per compensare i 31 miliardi di crediti IVA per esercizi fiscali precedenti al 2011, e tutte cose di questo genere che continuiamo a non vedere. Abbiamo invece assistito in questi due giorni, ovviamente, e lo capisco, a trasmissioni televisive in cui c'era una chiara impronta di difendere l'Agenzia delle Entrate di fronte a cose come Romano Lombardia, e io questa cosa la condivido e la capisco, perché onore e sostegno a chi lavora nell'Agenzia delle Entrate. Incredibilmente è pazzesco che il governo lasci loro in prima linea, come se fossero loro responsabili di un ordinamento così predatorio e intollerabilmente asimmetricamente improntato al mancato rispetto dei diritti del contribuente e del cittadino come quello italiano. È la politica che è responsabile di questo, non chi svolge amministrativamente le funzioni del recupero dei crediti. È la politica che dovrebbe rispondere, presentarsi in televisione, nei dibattiti, venire in radio da noi a parlare. È la politica che manca, perché sta solo assisa sull'altezza di questo tono che veramente potevo a malapena tollerare da quelli che c'erano prima, che erano in preda veramente da moltissimo tempo i signori del centrodestra, uno smarrimento del sé che poi li ha condotti, e vedrete come andranno alle elezioni, ma doverlo anche constatare dai signori del governo tecnico, per me è una sorpresa quotidiana e un'amarezza infinita. Allora, cominciamo a capire un po' meglio dal primo ospite nostro, che è Dimitri De Leonanes. Ve lo ricordate, lo abbiamo più volte interpellato nei diversi passi del procedere della crisi greca, è corrispondente della TV pubblica greca, autore del libro Come la Grecia, quando la crisi di una nazione diventa la crisi di un intero sistema, e aiutiamo, oltre a ringraziarlo, cerchiamo un aiuto da parte sua, perché gli elettori greci hanno dato una bella sberla a tutta la politica che aveva visto alternarsi in questi ultimi anni i socialisti del PASOK e i conservatori di Nea Dimokratia. Ovviamente i due partiti non riescono a fare, anche se non conosco l'ultimo aggiornamento dei seggi, non so se siano arrivati a fare 151 su 300 in termini di seggio, ma in termini proporzionali sono largamente al di sotto della maggioranza, ma quando dico largamente significa che sommati fanno poco più di un terzo degli elettori. E naturalmente c'è l'esplosione invece della sinistra estrema, c'è l'esplosione anche di questo singolare partito di destra neonazista ma antitedesco, per così dire, che fino alle scorse politiche stava abbondantissimamente sotto lo 0,5% e che è esploso invece a percentuali che lo fanno trionfalmente entrare nel Parlamento greco. Certo, dell'impossibilità di formulare una maggioranza, la domanda dei mercati sarà: tornano a votare? Non ce la fanno? Escono dall'euro? Sentiamo da Dimitri De Leonanes quali sono le sue opinioni intorno alle proporzioni del voto di ieri e che cosa bisogna attendersi a questo punto dalla politica del suo paese. Grazie e buongiorno a Dimitri. Allora, che ci dici? Buongiorno, sì, mi ha fatto una spilza di domande, cominciamo, da dove cominciamo? No, in realtà da che cosa bisogna attendersi, perché tanto chi ci ascolta più o meno i risultati li ha letti sui giornali e capisce che insomma c'è una condizione nella quale la domanda iniziale è: un governo si fa, si torna a votare oppure no? Io credo che le condizioni per fare un governo ci siano, sarà un governo ovviamente dalla maggioranza striminzita, è probabile che ci sia un tentativo di allargare verso il partito riformista, il partito della sinistra democratica, comunque la cosa politicamente rilevante è che sarà sicuramente un governo che avrà verso l'Europa un atteggiamento diverso da quello che hanno avuto i due governi precedenti. Perché il messaggio dell'elettore greco è stato più che sicuramente era rivolto ai due partiti che hanno governato per 40 anni che sono i responsabili del disastro economico, ma ha voluto l'elettore greco mandare anche un messaggio all'Europa, un messaggio di grande insofferenza verso la politica, grandissima recessione, di profondissima recessione, di grandissima sofferenza verso i lavoratori, per cui la richiesta al governo, qualsiasi esso sia, è di vedere di salvare salvabile, di vedere di elaborare una politica diversa, insomma di avere un atteggiamento molto molto diverso verso dalla subalternità, remissione che aveva mostrato Papandreou e anche Papademos. D'altronde anche lo stesso Samaras, il leader di Nuova Democrazia, che prenderà l'incarico dal capo dello Stato, aveva già parlato in termini un po' vaghi in maniera preelettorale, ma l'ha ripetuto anche ieri sera, che cercherà di ottenere una rinegoziazione delle misure che attendono il nuovo governo. Ma però lei dice ragionevolmente, siccome erano su quota 149, 148, 150 seggi, un po' meno della metà o al massimo la metà del Parlamento, la somma degli eletti del PASOK, dei socialisti, che è sotto il 14% è sceso, e dei conservatori di Nuova Democrazia che sono sotto il 20%, sommando il 6% e quindi i seggi di Sinistra Democratica, dovrebbero, sia pur di poco, lei dice, superare quota 150 per fare la maggioranza. Sì, sì. Oh, da questo punto di vista, lei pensa che una maggioranza così esigua regge di fronte poi a un'espressione popolare che vede partiti come Alba Dorata, appunto questi neonazisti che hanno preso il 7%? No, il messaggio che ha voluto dare il fatto rilevante delle elezioni non è tanto l'ingresso dei neonazisti dichiarati dentro il Parlamento, di questo se vuole un po' ne parliamo. Il messaggio è privilegiare la sinistra e non tutta la sinistra, privilegiare in particolare la sinistra europeista, e questo è importante perché è un messaggio di appunto verso l'Europa, cioè noi vogliamo continuare a rimanere nell'euro, vogliamo l'euro. Cioè da questo punto di vista lei dice è più importante il 6% di Sinistra Democratica che il fatto che Sinistra Radicale abbia... No, è più importante il 15% di Sinistra. Sì. Ah, di Sinistra Radicale, sì. Che è una sinistra europeista. Ah, perché da quel punto di vista è un'aggiunta comunque di responsabilità, non di irresponsabilità al voto. Esatto, esatto. Non hanno privilegiato per esempio il Partito Comunista, che è un partito dichiaratamente anti-europeista, che vuole uscire dall'euro e uscire dall'Unione Europea. Questo è importante, questo è importante. Per quel che riguarda l'Alba Dorata, invece... È una exploit elettorale che io attribuisco toto al problema dell'immigrazione, che sta assumendo proporzioni gigantesche in Grecia, da dove dalle frontiere con la Turchia passa, secondo la Commissione Europea, passa circa l'80% degli immigrati clandestini che entrano in Europa. E poi molti di loro, questa grande maggioranza di loro, non riescono ad attraversare poi l'Adriatico e diffondersi in Europa, quindi rimangono capsulati, inglobati in Grecia e creano veramente degli enormi problemi anche di ordine pubblico. Quindi la Grecia scopre un po' le stesse tensioni iniziali che quando l'Italia si trovò per la prima volta esposta da anni fa a questo problema, esatto, portarono poi la Lega e così via. Bene questo problema. problema, esatto. Anche se da noi nessuno era mai entrato in Parlamento col programma di mettere le mine anti-uomo sul confine, come abbiamo letto, invece fanno quelli di Alba Dorata nel loro proposito. Siamo sicuri? Beh, insomma, le mine, la Lega, le mine anti-uomo non le aveva mai proposte. Cioè, parlava di cannoneggiare. Parlava di mitragliamenti in mare, ha ragione, esatto, lei. Sì, esatto. Allora, questo c'è stata una grandissima lacuna di intervento, anche politico, su questo problema da parte delle forze democratiche, che è un problema che colpisce, come noi sappiamo, specialmente le classi popolari che vivono nei quartieri della periferia delle grandi città, dove in effetti Alba Doro è riuscita a prendere grandissime percentuali. Io ieri sera parlavo con degli amici della sinistra mentre seguivamo appunto le elezioni, e appunto abbiamo litigato su questo, perché non si riesce, c'è questo dogmatismo di sinistra per cui, ecco, il problema dell'immigrazione è un problema che non si parla, di cui non si parla, non si affronta, eppure sull'immigrazione si creano e si sfaldano governi in tutta Europa oramai, penso, per cui ecco, bisogna prendere posizione e bisogna trovare una soluzione. Comunque, insomma, De Leonardis ci dà un messaggio sul quale io confido, cioè è un messaggio rassicurante, perché dice: no, la maggioranza risicata, ma ci sarà. Comunque l'affermazione di Syriza è un'affermazione che è un ulteriore argine pro-europeo, non anti-europeo. Bisogna vedere i margini di una rinegoziazione, perché alla rinegoziazione, a una richiesta di rinegoziazione, comunque la Grecia va per forza, mi pare di capire, visto l'approfondimento della recessione. Esatto, ecco, esatto. Quello è il problema di fondo. Quindi, a quel punto, attenzione, perché o l'Europa cambia un po' di segno e apre le porte a una rinegoziazione con la Grecia innanzitutto, ma significa poi problemi della Spagna per le banche, significa per tutti gli eurodeboli, oppure se ci irrigidiamo sulla Grecia e ci irrigidiamo a quel punto su tutti gli altri vagoni annessi, diventa ancora più rischioso, perché non si fa altro che alimentare la protesta. Però l'interpretazione di Dimitri è: non crediate che sono tutti impazziti nel mio paese, non si rifanno le elezioni, quindi... Beh, la Costituzione dice che se si dà l'incarico agli esponenti dei tre primi partiti e non si riesce a fare governo, allora è obbligatorio tornare alle urne, ma io credo che sia la soluzione estrema, insomma, che si riuscirà a trovare un'altra soluzione. No, anche perché quello è il meccanismo che poi i mercati leggono come uscita dall'euro, quindi a quel punto significa veramente l'Armageddon, quindi la mia speranza è che la politica greca riesca a evitare questa prescrizione della Costituzione greca per la quale si torna. Lo credo anch'io. Esatto, ma infatti tentiamo adesso di dare qualche messaggio, anche non di rassicurazioni infondate, ma di leggere un voto che ha un segno chiaro, è il rigetto, è di protesta, eccetera eccetera, e che però contemporaneamente bisogna augurarci, ci sono ancora i margini, perché diventa una protesta che diventa politica, per così dire, che dà un altro segno anche alla politica europea, la riequilibra, e ce n'è bisogno, perché secondo me poi alla fine poniamoci il problema, ma gli elettorati dei paesi eurodeboli, che non hanno visto un meccanismo eurocooperativo, e in questo sbagliano, secondo me mica sbagliano, cioè il rigore è giusto, secondo me è sacrosanto, ma nel fiscal compact non c'è un meccanismo per cui i paesi in avanzo di bilancio dei pagamenti, mentre quelli invece che devono fare ordine fanno molto ordine, aumentano le tasse, tagliano molto le spese, però non è che quelli in avanzo di bilancio dei pagamenti riequilibrano, non è che nessuno statista europeo abbia, secondo me, con un po' di lucidità detto ai tedeschi: mettiamoci al tavolino, perché di tutto il surplus di investimenti e di capitali che si dirige verso di voi come paese eurostabile, almeno una parte li rimettete in ciclo all'interno dell'Europa. È un meccanismo contrario al rigore questo? Io credo di no, per esempio, però se mi metto nei panni dei greci, che sono alle prese con una recessione così terribile, quanto è la disoccupazione oggi, Dimitri, nel vostro paese? Penso che abbia superato il 20%, perché alla fine dell'anno dell'anno scorso era sul 19%, quindi adesso sarà arrivato a... Sì, e quindi se pensate a oltre il 20%, se pensate al 25% di disoccupazione in Spagna, non è che, voglio dire, gli elettorati siano matti, secondo me si trovano a vivere in condizioni di fronte alle quali uno dice: no, dove ci sta portando questa politica? È il fallimento di una politica. Esatto, ma è vero, per concludere, è vero che in Grecia il sentimento antitedesco è popolarmente esteso davvero, e spiegherebbe perché anche i turisti tedeschi sarebbero in diminuzione di prenotazioni, o è un aspetto su cui noi giornalisti esageriamo un po'? No, è vero, è un po', c'è stato in questi 2 anni e mezzo uno scontro di opposti populismi da parte della stampa greca e della stampa tedesca, si è creato questa reciproca antipatia. Sarà il caso, per me è una cosa simpatica, ecco, appunto, è vera. Sarà il caso un po' che anche la stampa poi inizi ad abbassare i toni. Io ringrazio Dimitri Degli Olene, spero di aver dato ai nostri ascoltatori un quadro non da fine del mondo, ecco, tentiamo di evitare i toni da fine del mondo su questo turno elettorale che ha un segno preciso ma va capito paese per paese e soprattutto va tradotto in un cambio di passo della politica europea. Veniamo alla Francia, la Francia che cambia di segno nel secondo turno delle presidenziali, la vittoria, tutti lo sanno, è la vittoria di Hollande, il socialista, Sarko sconfitto, si era capito come andava a finire, è stato un mesto declino quello del presidente uscente. Abbiamo con noi Philippe Ridet, che è corrispondente di Le Monde a Roma, io lo ringrazio e gli chiedo come prima domanda, poi andiamo in pubblicità e continuiamo, quanto ha pesato nel voto dei francesi, nel cambio di segno, nel ritorno di un socialista dopo che Ségolène aveva fallito il tentativo la volta precedente, quanto ha pesato l'aspetto europeo, cioè Sarkozy per così dire comprimario ma in fila e senza obiezioni della Merkel, tranne cambiare idea nelle ultime concitate fasi della campagna elettorale, e quanto invece il segno politico del voto dei francesi è dominato da questioni che con l'Europa non c'entrano e sono interne, perché in realtà in campagna elettorale sentire Hollande, la richiesta di nuovi assunti nel settore pubblico, il no al fiscal compact, l'aspetto europeo mi sembrava largamente prevalente, però dal tuo punto di vista, che sicuramente ne sai 100 volte più di me, qual è l'aspetto? Il cambio europeo o il cambio nazionale nel voto dei francesi che prevale secondo te e sulla stampa francese stamane, Philippe? Ma entrambi i due, comunque, perché questa campagna sia da parte di Sarkozy sia da parte di Hollande si è fatto all'inizio, almeno sul tema europeo. Hollande ha diciamo dettato un po' l'agenda, dichiarando subito che lui voleva rinegoziare il fiscal compact, poi ha cambiato un po' di ruota dicendo che voleva solo aggiungere un trattato a favore della crescita accanto al fiscal compact. Ma la cosa un po' strana è che questa campagna elettorale si è fatta su dei temi molto francesi e sotto lo sguardo di tutti gli europei. Quindi adesso è una situazione un po' paradossale, perché tutta l'Europa parla di questa elezione e della vittoria di Hollande, chiedendoci se Hollande che tipo di uomo è, ma la campagna elettorale stessa si è fatta su dei temi che non hanno nulla a vedere con l'Europa, tranne qualche momenti, diciamo così. E diciamo, tra quelli che interni, domestici, che hanno portato Hollande in realtà a vincere sull'uscente, dovessi identificarne rapidamente uno o due che poi approfondiamo dopo la pubblicità, che cosa diresti? Della campagna di Hollande? Sì. Che cosa ha i temi portato? Interni che lo hanno portato di più a vincere? Penso che il colpo vincente è stata la sua proposta di tassare i redditi sopra 1 milione di euro. Questa è stata la proposta più devastante, perché nel Partito Socialista e neanche Sarkozy erano preparati a questa proposta, e lui è un po' la proposta che sarebbe equivalente a quella dell'identità nazionale che Sarkozy aveva fatto 5 anni prima, quindi una proposta che in sé è un marker tra destra e sinistra, e questo penso che è stato il colpo più vincente di Hollande. Di vincente dal punto di vista interno, quindi tassiamo i ricchi. Eccoci tornati qua in studio, e in studio vi leggo per ricominciare una lettera delle tantissime che continuano ad arrivarci, ce la scrive Gianluca da Bolzano, e la sua è un'impresa attiva nel commercio di utensili dal 73, opera sia in provincia di Bolzano che in quella di Trento, e che nel corso degli anni ha attraversato diverse crisi legate all'andamento del mercato, ma negli ultimi anni il fatturato è calato, ci scrive Gianluca Paganella, in quanto molti clienti importanti aventi casa madre in Germania hanno stipulato accordi di fornitura con un grosso rivenditore tedesco che ha trovato soprattutto in Alto Adige terreno fertile, portandoci via buoni almeno 500.000 euro di fatturato. Coprendo tutto il mercato europeo, avendo una grossa finanziaria alle spalle, i suoi prezzi, quelli del concorrente, sono molto più concorrenziali, ma per contro non fornisce fornisce però, a differenza di noi, supporto tecnico, i suoi prodotti sono spesso di qualità bassa. Chiaramente noi non siamo rimasti, ci scrive Gianluca, con le mani in mano, ci siamo attrezzati di conseguenza, siamo andati a cercare prodotti di alta qualità per indirizzare il nostro business sulla consulenza tecnica a ciclo completo con i nostri clienti, più che sulla battaglia del puro prezzo. A partire dal 2008 però il sistema bancario ci ha praticamente tagliato le gambe e bloccato i fidi concordati. Anche qui non siamo rimasti fermi, abbiamo portato in banca tutte le soluzioni praticabili e che le banche ci hanno richiesto, abbiamo ridotto il personale, ottimizzato i costi operativi, ulteriormente portato avanti il piano di risanamento, abbiamo chiesto una riduzione degli affidamenti, non ci è stata concessa neanche quello, abbiamo chiesto di poter utilizzare gli affidamenti per evadere gli ordini, girando alle banche una percentuale tra il 20 e il 30% dell'incasso per rientrare nel debito, ma anche questa ipotesi ci è stata rifiutata. Abbiamo a quel punto continuato a perdere importanti contratti di fornitura che avrebbero permesso alla società di diventare leader in Trentino Alto Adige e ci avrebbero consentito di raddoppiare il nostro fatturato acquisendo clienti già attivi, perché a fronte della segnalazione su la centrale rischi, il fornitore pretendeva garanzie che non siamo stati in grado di fornire. Ripeto, scrive Gianluca, noi clienti li avevamo, li abbiamo persi per questo solo meccanismo del no crescente oppostoci dalle banche, che ci ha portato in centrale rischi. Alla fine il fatturato degli ultimi 3 anni è calato, non perché la società non ha richieste, non ha clienti, non è in grado di vendere, ma perché anche a fronte di crediti certi della provincia autonoma di Trento e Bolzano, la banca non ci ha permesso, neanche in questo caso, di sfruttare il castelletto e quindi di procedere a lavorare e consegnare ai clienti. Solo l'anno scorso ci siamo visti annullare 150.000 euro di ordini aggiuntivi perché non riuscivamo a evaderli. Nonostante ciò abbiamo pagato alle banche tutti gli interessi passivi, circa 180.000 euro l'anno, ma non siamo riusciti a pagare le rate di mutuo arretrato, mutuo erogato per liquidare un socio della società. Tutte le nostre richieste di deduzione degli interessi non sono state accolte, in quanto secondo la banca non siamo in grado di generare profitti ulteriori e quindi siamo un cliente a rischio, conclude Gianluca. L'ho fatta un po' lunga, infatti era giusto secondo me leggervela integralmente per farvi capire che qui siamo in presenza ancora una volta con un fenomeno che, con le balle che vi raccontano che noi vorremmo difendere gli evasori, con le balle che vi raccontano che noi vorremmo difendere le imprese che non stanno in piedi, non c'entrano nulla, non c'entrano nulla. Questa è la chiara fotografia di un'impresa che io sto a Gianluca Paganella che scrive, che ha prodotti che ha buona qualità, non ha dietro di sé certo la filiera compatta del sostegno di una concorrente tedesca che è, ovviamente ha la forza del prezzo per questo, ma che le banche mettono in crescente difficoltà e portano alla condizione di perdere clienti, di non riuscire a onorare un mutuo che serviva per liquidare un socio, ed ecco che la crisi si avvita. E di fronte a questo che serve, come da una parte lo Stato dovrebbe pagare i suoi debiti e dovrebbe compensare l'IVA, anche per il sistema bancario dovremmo a 4 anni della crisi immaginare un sistema per il quale le giuste esigenze di tutela del credito, che è in via di deterioramento delle banche, si incrocino però con una capacità di scelta del merito delle imprese capaci di stare sul mercato come sta questa impresa. Ecco, è di questo che noi ci occupiamo e che vorremmo. E oggi, tra l'altro, in una trasmissione della 7, tra poco faremo un collegamento telefonico con Mirta Merlino, perché alle 11 sulla 7 su Mirta Merlino, nell'aria che tira, la sua trasmissione quotidiana, raccoglie il testimone e si occuperà, gli abbiamo passato un po' di lettere, si era molto incuriosita la sua redazione della quantità di lettere che noi registriamo, e il direttore di Radio 24 sarà in studio da Mirta Merlino esattamente per prendere il testimone e rilanciare il tema di cui ci occupiamo. Comunque adesso è in linea Mirta Merlino? È in linea, buongiorno Mirta. Buongiorno Oscar, buongiorno. Allora, vi occuperete, lo avete già fatto, perché anche voi ricevete tonnellate di lettere, però mi piaceva particolarmente segnalare ai nostri ascoltatori che alle 11 nella puntata di stamattina, l'aria che tira, che guida molti mesi sulla 7 eccellentemente, c'è il nostro direttore Tamburini e parlate proprio direttamente non solo di quelle che avete ricevuto voi, ma anche di quelle che abbiamo ricevuto noi, di questa tragedia in corso. Leggiamo alcune delle lettere che voi ci avete mandato, alcune delle quali sono veramente emozionanti, devo dire, perché c'è una grande umanità, perché secondo me mi sa che c'hai la radio accesa. ho molto amato questa vostra iniziativa, perché mi è sembrato che all'improvviso in qualche modo si cambiasse registro, no? Da questa crisi che era sempre stata raccontata in termini di spread, numeri, statistiche, all'improvviso è arrivato l'uomo e ci ha raccontato pezzetto pezzetto quello che sta succedendo nelle vite quotidiane di tutti noi. Dato che noi, come tu dicevi, sono molti mesi che facciamo, proviamo a raccontare il paese dalle nostre telecamere, invitando in studio gente vera che ci racconta pezzi di storie, dagli esodati che abbiamo scoperto il 5 di dicembre fino appunto ai piccoli imprenditori che non ne possono più, ai rapporti con Equitalia, quindi ci sentiamo molto in sintonia con quello che fate voi, ci fa piacere stamattina poter raccogliere il testimone e continuare con delle storie in studio, alcuni dei vostri ospiti, delle vostre lettere, li abbiamo invitati, abbiamo ben 4 persone che vengono in studio con noi stamattina, che sono proprio quelli che ci avete segnalato voi con le vostre lettere, tra cui per esempio c'è l'avvocato De Falco, l'avvocato napoletano che ha scritto proprio a voi la lettera in cui dice: non voglio più difendere Equitalia perché non mi posso più sentire complice di qualcosa che non va bene, quando dopo che è morto si è ammazzato l'imprenditore napoletano, l'immobiliarista napoletano, lui ha detto basta, non voglio più difendere Equitalia, e stamattina sarà da noi a raccontarci la sua storia. Io spero che ci raggiungerai anche tu, e tra l'altro domani mattina in libreria arriva L'aria che tira, che è il libro della trasmissione in cui proprio abbiamo messo in fila tutti questi racconti di cittadini in carne ed ossa con i loro problemi, che si sono rivolti alla nostra trasmissione proprio con l'idea di poterli accompagnare davanti a qualcuno che li ascolti, perché il vero punto è che sono persone che nessuno più ascolta, e questa è la cosa che a me colpisce profondamente, mi fa sentire che il nostro mestiere in questa fase è utile se porta queste persone davanti a chi ha il potere, e quindi poi insomma faccio sentire le loro voci per prendere decisioni che siano un minimo più eque sul nostro futuro. Posso farti una domanda? Tu ti aspettavi dal governo in carica, il governo dei tecnici, un governo di persone preparate che conoscono i problemi, però dal punto di vista della risposta, della sensibilità umana e anche istituzionale di fronte alla gravità di questa frattura che emerge con una rapidità nuova rispetto pure ad anni di crisi che abbiamo alle spalle, ma ti aspettavi un atteggiamento, non voglio giudicarlo con termini pesanti, almeno ecco, mi limito a definirlo freddo, distante, perché visto che neanche la marcia delle vedove è riuscita a sollecitare una sola parola politica istituzionale da parte del governo o del Quirinale, te lo aspettavi oppure no, è giusto così secondo te? No, io sinceramente ho avuto la sensazione di una distanza dal paese reale molto forte di questo governo, l'ho avuto in alcuni casi insomma precisi, per esempio sul tema esodati, io veramente ho sentito che il ministro Fornero stava facendo una riforma sulla carta, non rendendosi conto di quali erano poi le mille pieghe del paese reale che lei andava a toccare. E effettivamente sono d'accordo con te, cioè ci sono alcune cose sulle quali sentire una parola, mi rendo conto che non c'è la bacchetta magica, come dicono spesso loro, non ci sono le ideone, non ci sono, tutto giusto, però insomma l'ascolto di quelli che sono i problemi delle persone e anche un po' la pietas, no? Insomma, l'idea di poter di capire quello che sta succedendo, secondo me un po' manca, cioè questo governo si è un po' chiuso in una torre d'avorio, quindi io veramente mi auguro che tutte queste iniziative, a partire dalla vostra, a continuare dalla nostra, possano in qualche modo far sentire delle voci, perché non è possibile che chi soffre così in questo paese sia completamente abbandonato dalle istituzioni, dal governo, dalla politica, dai centri di potere, cioè c'è qualcosa che non funziona, c'è un coro di esistenze sottosopra che deve trovare un minimo di attenzione, non va bene così. Anche perché Mirta, a lungo andare, come dicono le urne greche e francesi oggi, se la politica poi continua ad ascoltare e poi alla fine la protesta si ingrossa, secondo me ha ragione ed ecco dove porta, e sarà così secondo me, le proporzioni, le storie, i percorsi nazionali sono diversi, ma sarà così presumibilmente anche in Italia. Io ringrazio Mirta, ricordo ai nostri ascoltatori sulle 11 l'aria che tira sulla 7 per continuare esattamente con le lettere degli imprenditori di Disperati Mai, @radio24.it. Grazie Mirta, e adesso c'è l'informazione sul traffico. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only. Eccoci qua, tornati, ed eccoci qui tornati. Scelgo un'altra lettera nel pacco, quella di Flavio Parise. Una storia uguale a mille altre, ci scrive, condivido con altri miei colleghi, una delle tante. Una piccola impresa nella storia del commercio edile, con un volume d'affari circa 4 milioni di euro. Nel 2008, antecrisi, avevamo affidamenti bancari per 2 milioni. Con tali affidamenti abbiamo finanziato investimenti, nonché il nostro giro. Ma dal 2009 è iniziato a cambiare il mondo. I nostri clienti, costruttori edili, hanno cominciato ad andare in crisi, dapprima non essendo regolari con i pagamenti, via via, sempre peggio è andata. Sono arrivate le perdite sui crediti, con i fallimenti e le chiusure. Un nostro cliente si è suicidato. Di lì iniziano le tensioni finanziarie, il rating bancario peggiora, le banche riducono gli affidamenti. Dalla crisi siamo andati al panico. Oggi, fino a aprile 2012, abbiamo affidamenti per 850.000 euro, gli ultimi 100.000 ci sono stati ridotti un mese fa. Siamo nel panico e la continua diminuzione dei fidi ci sta facendo fallire. Non riusciamo a onorare i fornitori e gli stessi ci bloccano le forniture finché non paghiamo il debito. Stiamo vivendo alla giornata, ma non so quanto riusciremo a sopravvivere, ci scrive Flavio. Stiamo ristrutturando, riducendo i costi più possibile. Speculiamo oramai ogni minimo centesimo, risparmiamo il tonnello della stampante. Tra licenziamenti e cassa integrazione permanente abbiamo ridotto di 5 unità la pianta organica dei 16 dipendenti, ma altre ne verranno di sicuro in futuro. Certo, abbiamo proprietà immobiliari che valgono più del doppio del nostro debito, ma oggi non siamo riusciti a vendere e a realizzare per autofinanziarci. Se non succede un miracolo prima della chiusura per ferie di oramai tra 8 settimane, per noi è finita, perché avremo chiuso. A mio modesto modo di vedere la politica, aggiunge Flavio, la politica è lontana dalla realtà, mille miglia. Per noi, vedete, il primo problema non è un problema di costi della politica, che pure sono esorbitanti, dei benefit dei politici, dei finanziamenti pubblici, dell'articolo 18, ma facciano un po' come gli pare, dice Flavio. Per noi il problema è la crescita, è il finanziamento alle piccole imprese come noi, è il mercato che non c'è a furia di avere denaro che non gira. Ecco, noi per via degli affidamenti ci siamo esposti e nel momento della crisi siamo stati obbligati al rientro. Non riusciamo a liquidare ciò che abbiamo e per noi questa sarà la fine. Ecco. Non lo so, devo dirvi la verità, non lo so, mando in onda le telefonate perché è meglio, perché mi hanno accusato anche ieri di essere stato troppo duro. Io sono stato ospite alla Setta sabato sera, ieri all'Arena dei Giletti, mi sono trovato in controtendenza. Alla Setta, devo dire, mi hanno dato ragione sindaci sia di sinistra che di destra, perché lì il problema era lo scandalo di un IMU per cui lo Stato tassicodipendente non riesce a dire nemmeno prima di quanta droga di tassa avrà bisogno, quindi dice che prima in una rata, poi in due, poi in tre, poi dice ma intanto lo metto, ma poi lascio i comuni, però intanto i soldi se li piglia lui e non restano ai comuni. Insomma, una vicenda di fronte alla quale, siccome questa sta tutta nella responsabilità di questo governo, credo che anche questo governo purtroppo non riesca a evitare che io dica che questo Stato è uno Stato purtroppo ladro, perché capisce? Un ladro che ti visita a domicilio e ti dice torno. Vi siete scandalizzati per la battuta di Grillo intorno al pizzo alla mafia? Ma io penso che non sono quasi mai d'accordo nel merito con quello che dice Grillo, ma io su quella battuta devo dirvi la verità. E apposta lo dico, perché trasalgano i sostenitori dello Stato etico, sono d'accordo, lo Stato è ladro in questo momento. Chi non lo capisce al governo, che deve smontare alcuni presupposti di fondo con gesti simbolici ma che incidano nella carne di uno Stato che si dà sempre ragione, con giudici che gli danno sempre ragione, che non paga i suoi debiti ma pretende da noi molto di più, beh, questo credo che sia un errore politico. E anche se questo governo non ha le responsabilità dello sfascio che ha ereditato, questo doveva capirlo e deve capirlo. Sentiamo come la pensa Giulio, che ci chiama da Biella. Prego Giulio. Io volevo intervenire riguardo il partito di estrema destra greco, sì, quello del Chrysi Avi, loro lo chiamano. Facilmente lo si dice del filo nazista, non è così, perché noi abbiamo la tendenza di dare tutto ciò che è antisistema, di classificarlo come nazista, fascista, perché non anche se Dimitri ci ha detto che i voti che ha preso li ha presi soprattutto sui temi dell'immigrazione. L'immigrazione, perché la frontiera con la Turchia è un fiume in piena che manda dentro tutti gli islamici, sia che vengano dall'estremo oriente che dal vicino oriente. Non c'è niente da fare, c'è la Grecia che è invasa di questa gente. Tanto più se i poveracci vanno a vivere nei quartieri popolari, ovviamente, hanno delle abitudini. È chiarissimo. Infatti Dimitri questo ce l'aveva spiegato, e questo è sicuramente quindi uno dei punti che spiega il successo nelle grandi città. Chetti da Vicenza, rapidissima. Sì, buongiorno. Io posso soltanto raccontare un attimo quello che mi sta succedendo in questo periodo. Praticamente io ho finito 8 anni di pagare le rate di leasing per comprare l'ufficio dove ho la sede della società, 1600 euro al mese per 8 anni. Sì. Adesso devo riscattarlo, mi mancano 9000 euro più le spese del notaio. E la banca che dice? La banca non mi dà un mutuo, mi sono iscritta alla Chetti, volevo solo farti dire questo, perché tanto non sono i particolari ad aggiungere, ma è il fatto che vi conferma le lettere che abbiamo letto prima. Noi continueremo, intanto appuntamento a domani. 9 in punto, la versione di Oscar.